Il punto di Stefano Folli. A questo punto c'è solo da augurarsi che la legge di stabilità giunta all'ultima curva a Montecitorio non subisca gli effetti della coda avvelenata di questa legislatura perduta, definizione del Presidente della Repubblica. E poi basta, cali il sipario e si cominci a guardare avanti. Ascolteremo le parole che dirà Monti domenica mattina, valuteremo il grado di novità che il suo ruolo politico sarà in grado di portare sulla scena politica e nel rapporto con gli italiani, nei temi, nel modo di proporli, nel senso delle istituzioni e della moralità pubblica che saprà o vorrà trasmettere. O Monti ha la capacità di cambiare il senso della campagna elettorale, oppure non c'è ragione di suscitare tutta questa attesa. Nel primo caso il contributo del Premier sarà, è vero, costruito intorno alla sua persona, come dice Bersani in modo critico, ma finirà per essere, come è inevitabile, un volano di rinnovamento anche per gli altri attori della campagna elettorale. Lo stesso Partito Democratico, in grande vantaggio nei sondaggi, dovrà rivedere qualcosa nella sua proposta e nel modo di comunicarla.